Salve a tutti cari amici e benvenuti al nuovo appuntamento di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 30 maggio dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino. E anche oggi continuiamo il nostro viaggio attraverso le aspettative. La settimana scorsa il nostro viaggio è iniziato parlando di quelle che sono più o meno presenti in ognuno di noi, vale a dire le aspettative dei propri genitori, quindi della propria famiglia. E queste sono aspettative che, come abbiamo già detto, partono da prestissimo, diciamo da subito, probabilmente fin dal momento in cui una madre viene a conoscenza, che sia perché glielo dice il medico o che sia perché se lo sente dentro di sé, di avere un figlio in grembo, partono le aspettative. Bene, e poi nasciamo e queste aspettative le facciamo nostre. Ci sono e continuano ad esserci le aspettative della famiglia, ma via via che cresciamo, via via che diventiamo prima giovani adulti, giovani uomini, poi uomini, e fino ad essere chi ha fortuna di arrivarci con l'età più grande, quindi all'anzianità, quella che viene comunemente definita terza età, ci facciamo delle aspettative e continuiamo a farcele. Ad esempio, questo è un esempio stupido, io alla fine dicendovi queste cose vi dico un po' anche di me stesso, vi dico un po' di quello dunque che ho vissuto o che ho visto vivere, così cercando, senza giudicarlo, di analizzarlo, di comprenderlo, per vedere se magari c'è una via migliore per arrivare a fare le cose. In ogni caso, io mi ricordo, che ne so, quando ero un bambino mi piaceva un sacco il treno, poi da grande, crescendo, mi sono accorto che ai bambini piace il treno, cioè è incredibile ai bambini maschi quanto piace il treno, un sacco, mentre, che ne so, le bambine femmine magari sono più inclini ad altre cose di piacere, che ne so, magari sono più attratte dai vestitini, sono più attratte da altre cose. Però io mi ricordo benissimo che da bambino il mio sogno era quello di guidare il treno, cioè di essere colui che quando passava vicino ai giardini con il treno suonava quel fischio magico che la locomotiva emetteva all'epoca. Oggi probabilmente il fischio è cambiato un po' di rumore, però ecco, io mi ricordo questo, cioè la mia aspettativa di bambino era quella. Poi crescendo chiaramente ho preso altre vie, non ho fatto il ferroviere, non ho fatto il macchinista dei treni, però ecco, mi ricordo proprio viva e ferma quella idea di me proiettata nel futuro. E la nostra vita è sempre così, cioè qualsiasi cosa facciamo andiamo sempre proiettati nel futuro. Chiaramente c'è chi guarda al passato magari più che al futuro, e queste cose qua è abbastanza normale, ma e questo però lo fanno tutti, nel senso anche quelli che sono più proiettati al futuro. Ma è normalissimo, secondo me, vedere gente che fa una cosa e già pensa ad un'altra. Sì, farò questo perché almeno poi farò l'altro, oppure appena arrivo faccio questo. È in viaggio, è in aereo, beh sì, stiamo per decollare, spengo il telefono, appena arrivo faccio questo, senza calcolare in questo modo l'imponderabile, perché in effetti il futuro è incerto per definizione. Il futuro è tutto una proiezione tendenzialmente del nostro cervello, quindi di idee, di cose che magari ci vogliamo fare, però quello che poi succederà non lo sappiamo mica, quindi è preferibile le aspettative, non farsele o farsele nella maniera corretta, perché parliamo del futuro. Quando parliamo del futuro è preferibile farlo usando sempre la coniugazione verbale appropriata, perché se parliamo al futuro come se fossimo al presente non è appropriato, perché il futuro, dicevamo, è incerto. Quindi ad esempio, se io ho intenzione fra 10 minuti di cuocermi la pasta e dico sì, fra 10 minuti cuocio la pasta, bene, ho usato un tempo verbale sbagliato per il futuro, bene, avrei dovuto usare il futuro. Ma questa cosa non è che siccome ce l'hanno insegnata a scuola e siccome in italiano è così e dobbiamo fare così per questo, no, non è questo, ci mancherebbe. Alla fine non è una questione di forma, è proprio una questione di opportunità, perché parlare del futuro al presente ci mette, diciamo, sotto scacco rispetto a quelle che sono poi le variabili imponderabili che accadono. E di conseguenza dire quando arriverò faccio una determinata cosa ci mette nell'ottica, ci mette, diciamo, nella condizione di essere vittime di un qualsiasi evento, per cui quello che tu avevi intenzione di fare non lo farai per qualsiasi motivo sia, e farai magari un'altra cosa, disattendendo di conseguenza le aspettative di un'altra persona che magari a cui magari avevi detto quella cosa lì. Di conseguenza le aspettative che noi ci creiamo le riproiettiamo sia su di noi che sugli altri. Ecco perché le aspettative che si fanno gli altri nei nostri confronti sono altrettanto deleterie sia per noi che per gli altri che le fanno. Però questo discorso è diverso, affronta un'altra sfera, e non so se riuscirò a metterla in un'altra chiacchierata col vagabondo, però è un'altra cosa. Quindi restiamo nel tema di oggi, di me, come me e anche altre persone, mi immagino tantissimi di voi. Ad esempio io avevo il pallino del guidare i treni, e poi magari un altro aveva il pallino di giocare a pallone, magari un altro aveva il pallino di fare lo scrittore o piuttosto che il musicista. Però esserci creati tutte queste aspettative evidentemente ci ha anche condizionato un po' riguardo a quello che poi ci è successo, perché come si dice da un po', insomma, ecco, crearsi delle aspettative, proiettarsi nel futuro e vedersi a fare una cosa piuttosto che un'altra probabilmente ci inficia un po' un attimo proprio per la realizzazione del nostro sogno, proprio per la realizzazione del nostro progetto. Per questo è preferibile essere un attimino concentrati anche quando ci esprimiamo con le parole e anche con il pensiero, perché ecco, se una cosa la metti nel modo giusto alla fine prendi coscienza, è che è una questione di coscienza, prendi coscienza del fatto che il futuro non è scritto, prendi coscienza di questo, quindi metti sempre in conto quello che generalmente non si pondera, perché potrebbe accadere, perché diamo per scontato le cose più incredibili, quando invece le cose sono molto semplici. Alla fine la gente che fissa le ferie ad esempio di qui e 10 mesi, ma ok, va benissimo, cioè hai avuto lo sconto, una cosa piuttosto che un'altra, io sono d'accordo di tutto, però un programma così lungo in 10 mesi, come c'è un proverbio che dice, in questo periodo di tempo nasce un ciuco e vola, e in 10 mesi sì, nasce un ciuco e vola, perché può succedere veramente di tutto. Quindi proiettarsi così in avanti, dicevo, è preferibile non farsi aspettative di questo tipo, perché effettivamente questo modo di fare riesce a inibirci molto le riuscite poi delle cose che tendiamo a fare. O comunque sia, preferibile avere le idee chiare, sì, però senza aspettarsi chissà che, senza aspettarsi mari e monti. È come la persona che inizia a fare un'attività nuova, che magari potrebbe essere ad esempio lo speaker radiofonico. Quello inizia e pensa, si proietta già nel futuro di essere il nuovo Fiorello oppure il nuovo Baldini, oppure insieme il nuovo Fiorello e Baldini, lui stesso, tutte e due. Probabilmente questa cosa non fa bene, perché è l'ego, chiaramente è l'ego che ci fa fare questo tipo di cose. Però perché non va bene? Perché se te parti con l'aspettativa di essere, a fare un esempio sciocco, a fare questa cosa che è lo speaker radiofonico, con l'aspettativa di essere il nuovo Fiorello e Baldini, chiaramente sì, qualcuno potrà essere, prima sarà, prima o poi, il nuovo Fiorello e Baldini, ma Fiorello e Baldini, per arrivare ad essere Fiorello e Baldini, ora cito loro, per arrivare ad essere come loro, cioè, ma la gavetta che hanno fatto è immensa, e non è che uno inizia a fare lo speaker radiofonico e dopo 3 puntate lo chiama Radio DJ, ad esempio, no, non è così che funziona, perché se poi te fai le cose con queste prospettive qui, con questo tipo di aspettative qui, è proprio quando prima di quello che te ti immagini proprio succede un qualcosa per cui non lo fai più, perché o succede di un terzo fattore che si inserisce nel mezzo e quindi poi smetti, oppure sei talmente frustrato, sei talmente scocciato del fatto di non essere Fiorello e Baldini dopo magari 3 puntate di un programma registrato che fai e quindi smetti, e allora lì le aspettative hanno chiaramente giocato giocato a sfavore di quello che poi poteva essere potenzialmente il reale utilizzo del tempo, il reale utilizzo delle capacità, il reale utilizzo della coscienza e dell'imparare, perché queste cose qua aiutano a imparare, aiutano ad acquisire coscienza, ma se le interrompiamo chiaramente ci inibiamo noi proprio tutto questo miglioramento che ci farebbe tanto bene nella vita. E cari amici, come sempre siamo arrivati al momento del cafone vagabondo. Anche questa settimana un viaggio finale nel viaggio del cafone attraverso i nostri vizi, i nostri modi di fare che sono più o meno politicamente scorretti, che sono più o meno inopportuni. Beh, e questa settimana il cafone vagabondo è colui che, o colui o colei, chiaramente questo tipo di cafone non ha sesso preponderante rispetto ad un altro, è colui che, ad esempio, siamo ad una cena, siamo a casa di amici, siamo passati per un caffè, siamo da qualche parte, siamo in un negozio, siamo dove siamo, non è importante, però abbiamo fretta e incontriamo il nostro cafone che inizia ad attaccarci il bottone, come si suol dire da queste parti, vale a dire inizia a parlare, parla e parla e parla di un argomento e poi finisce un argomento e ne inizia un altro, non ti dà magari nemmeno il tempo di controbattere alla conversazione perché è lui che tiene, o lei che tiene in piedi tutto quanto nel suo castello in aria, bene, ma tu hai fretta e quindi saluti, grazie mille Giovanni, però me ne devo andare, ho da fare un attimo, sì ma aspetta ti dico anche questa cosa qua, e per cortesia che fai, resti ancora un attimo, augurandoti che il tuo caro amico Giovanni abbia effettivamente capito l'antifona e che ti lasci andare a breve perché hai veramente fretta, ma niente da fare, Giovanni è molto testardo ed è molto cafone, continua il suo racconto e lo amplia, addirittura lo estende e poi si passa ad un parente, poi si passa ad un amico, perché te la deve proprio raccontare tutta, ma a te, uno, non te ne importa assolutamente niente, e due, c'hai fretta, te ne devi andare. Quindi, caro Giovanni, smettila di fare il cafone, e quando è il momento di lasciar libere le persone, lasciala libere, perché effettivamente è molto maleducato non permettere ad una persona di continuare il suo percorso. Bene, cari amici, anche oggi la puntata del vagabondo termina qua. Io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione e per avermi ascoltato fin qua. Come sempre l'appuntamento è per la prossima settimana sulle frequenze di Radio Big World con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo. E nel frattempo siate saggi!